Ex Novo è un marchio che nasce da una conversione in latino, da un'idea che è punto e a capo. Giriamo pagina su prodotti rivoluzionari, idee rivoluzionarie, produciamo i nostri prodotti a Trento, utilizziamo tecnologie altamente innovative. I nostri prodotti sono prevalentemente, per oggi, sono componenti d'arredamento e accessori di abbigliamento. Sostanzialmente tutte le creazioni, tutti i prodotti che nascono e poi vanno a finire sotto questo nome hanno la particolarità e l'esclusività che vengono realizzati e fabbricati senza l'utilizzo di stampi. Si parte direttamente da un disegno tridimensionale che viene fabbricato da stampanti 3D. In sostanza queste tecniche che prima venivano usate, che fino ad oggi sono state usate nell'industria per realizzare prototipi, con il progetto Ex Novo assumono lo status di prodotti. Direi che il progetto Ex Novo è sicuramente pioniere in Italia e rappresenta il primo esercizio dell'applicazione di questa evoluzione tecnologica. E noi siamo convinti che questo tipo di applicazione di questa tecnologia possa rappresentare un'ulteriore valorizzazione del design, proprio perché il progetto diventa la parte veramente importante, veramente fondamentale, che poi distinguerà un prodotto di successo da un altro.